Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Every day for all my life, I used to do it, and I needed it. The only thing I want is just to rush, push, cash. Ezechiele, Geremia e Giobbe, alcuni dei grandi profeti della Bibbia, ammonivano: le colpe dei padri ricadranno sui figli. Ci sarebbero infiniti esempi, da letterati come Giacomo Leopardi e Franz Kafka, ad artisti pop come Michael Jackson o Marvin Gaye. Oggi Destini incrociati racconta proprio una di queste storie. Due vite i cui destini si intrecciano e si influenzano in maniera più forte del semplice legame di sangue. Prima, un giovane uomo che si abbandona al sogno degli anni 60, si immerge nelle atmosfere delle contestazioni e si ribella a qualsiasi limite. Il destino lo fa anche diventare un giovane padre. Una responsabilità troppo grande, a cui non è preparato. Una responsabilità da cui fugge. Il destino, però, a volte non consente vie di fuga e pianifica appuntamenti inaspettati. Molti anni fa, quando ero appena un ragazzino, ero seduto sul letto e mia mamma mise su un disco. E fu la prima volta che sentì la voce di mio padre e ero annoiato e scusate, ora cercherò di cantare per voi questa canzone di mio padre. La voce che avete appena sentito appartiene a Jeff Buckley. Jeff Buckley, uno dei più straordinari cantanti che la musica contemporanea abbia conosciuto. Queste parole vengono pronunciate venerdì 26 aprile 1991 a New York, nella chiesa di St. Anne. In questo contesto tutto particolare, alcuni eccezionali musicisti rendono omaggio a Tim Buckley, padre di Jeff, che invece con la sua voce aveva incantato il pubblico degli anni 60. Tim è morto nel 1975 a soli 28 anni. I due, padre e figlio, si sono incontrati di persona solo una volta. Qui a New York, durante il concerto tributo a Tim Buckley, si incontrano ancora. Certo, non è un incontro materiale, quello raccontato oggi a Destini incrociati. È un incrocio spirituale, uno scontro di anime, una collisione di presenze e di assenze che cambia comunque per sempre le traiettorie delle vite dei nostri protagonisti. Tim Buckley nasce nel 1947 ad Amsterdam, vicino a New York. Nasce il giorno di San Valentino. Ben presto la sua famiglia si trasferisce a Los Angeles. L'infanzia, gli studi, sembrano quelli di un ragazzo qualunque. Ma già nell'adolescenza Tim inizia a vivere per la musica. Scrive, suona, canta splendidi pezzi che paiono già destinati a lasciare il segno. La differenza, però, la fanno la West Coast e la Beat Generation. Già dalla metà degli anni 50, infatti, la costa che va da San Francisco a San Diego diventa uno dei palcoscenici prediletti di intellettuali e artisti come Allen Ginsberg, Jack Kerouac, William Burroughs. Qui questi artisti cullano e coltivano la propria voglia di fuggire, di scappare, di rompere con la società, di crearsi mondi alternativi, diversi. L'esigenza di una frattura, come racconta lo stesso Kerouac. No. La Beat Generation è un gruppo di bambini all'angolo della strada che parlano della fine del mondo. O come dice il mio amico Allen Ginsberg, fare 72 ore di macchina per scoprire se io, o tu, o lui, avevamo avuto una visione che ci facesse conoscere l'eternità. Il passaggio dagli anni 50 ai 60 è un periodo cruciale per la storia americana. La fine della dittatura cubana di Fulgencio Batista e l'inizio del castrismo sollevano polemiche, ma anche nuovi venti di passione politica tra i giovani americani e in tutto il mondo. Poi, con l'ingresso nel nuovo decennio, una raffica di eventi straordinari, tragici, cambiano i connotati dei riferimenti culturali e sociali delle giovani generazioni. L'avvento e la prematura fine di JFK, la morte del Che, il mito cubano, la guerra del Vietnam, fino a tragedie pop come la morte di Marilyn e l'avvento della minigonna. tutti fatti che disegnano un quadro nuovo e all'inizio disorientante, preparando il terreno ai disordini legati alle contestazioni studentesche, alle nuove lotte, al sogno di una società migliore e più giusta. Una tazza di caffè e una sigaretta. E da qualche parte c'è chi sta combattendo con spaventose carabine, le mani incrociate sul petto, le cinture appesantite dalle granate, in preda alla sete, alla fame, al terrore, alla pazzia. La West Coast, a metà degli anni 60, è come un pentolone in cui questi spiriti ribollono e si mescolano. Proprio qui inizia ad ottenere i primi successi Tim Buckley. E lo fa con una serie di canzoni scritte insieme al poeta Larry Beckett, grazie alle quali gira locali dell'ambiente del folk di Los Angeles. Il primo album arriva proprio grazie a un incontro fatto in uno di questi locali, quello con Herb Cohen, manager di un artista che rappresenta perfettamente lo spirito di quei tempi, Frank Zappa. L'album d'esordio prende il suo nome, Tim Buckley, e gli permette di fare un mini tour in tutta l'America. Tim ha appena 19 anni e viene a contatto con tutto ciò che è contestazione, con tutto ciò che è lo spirito degli anni 60, inclusi i viaggi lisergici, che diventano una costante talvolta drammatica della sua esistenza. La somma di queste esperienze, comunque, è l'album successivo, Goodbye and Hello, inciso a soli 20 anni. L'album evidenzia la grande differenza di Tim rispetto alla corrente dei cantautori allineati allo spirito della contestazione anni 60, a partire dal più celebre capofila, Bob Dylan. La cura estrema per la componente vocale. Tim cura ossessivamente la propria estensione e la propria tecnica, impreziosendo i suoi brani con deliziosi virtuosismi. Alla logica del raduno alla Woodstock, inoltre, Tim predilige l'atmosfera calda e fumosa del piccolo club, l'esibizione intimistica a voce e chitarra. Nelle parole dello stesso cantautore c'è tutto il senso del suo album più famoso e del suo rapporto con i tempi. Bisogna strappare l'America dalle mani del business e affidarla nelle mani della gente. Nella musica, come in qualsiasi altra cosa, l'unico momento davvero creativo è il caos. La mia più grande frustrazione è incidere dischi in mezzo ad altri musicisti senza la benché minima personalità. Tanti lavori che vengono venduti a loro volta a persone che non posseggono una precisa personalità. Persone senza volto, perdute. Penso che la pazzia sia osare l'esplorazione di una nuova dimensione, al di là della realtà. Proprio durante le sessioni di scrittura di quell'album, Tim Buckley incontra una donna fondamentale per i nostri destini incrociati di oggi. Una donna di cui si innamora e che proprio come lui vive per la musica. Si tratta di Mary Gilbert, violoncellista di origini sudamericane, con cui Tim pensa di poter costruire qualcosa. Affrettando i tempi, Mary rimane incinta, come racconta lei stessa. Tim ed io eravamo fidanzati dai tempi del liceo. Io avevo 17 anni e lui 18, ed eravamo alla vigilia della pillola e della rivoluzione sessuale. Così rimasi incinta e ci dovemmo sposare. È il 1967, l'anno prima del grande terremoto 68. Essere un giovane musicista ribelle di 19 anni con un figlio non è proprio la cosa più semplice del mondo. Il ribellismo chiama scelte dolorose, forse inconsapevoli. E così Tim, dopo pochi mesi, pianta la compagna e il figlio e se ne va. Quando ero incinta di 6 mesi, lui se ne andò a New York senza spiegazioni e non tornò. Quel piccolo bambino che io chiamai Scott Jeffrey visse per 9 anni senza sapere nulla del suo vero padre. Io mi risposai poco dopo e naturalmente prese il nome del suo patrigno, Moon Reed. Scotty Moon Reed. Questo fu il nome di mio figlio per i primi 9 anni. Intanto Goodbye and Hello, il secondo lavoro di Tim, ottiene grande successo, tanto da rimanere il lavoro più venduto della sua carriera, grazie ad alcuni pezzi memorabili. I Never Asked to Be Your Mountain, Phantasmagoria in Two, Once I Was, il singolo Morning Glory. Dopo il discreto successo di Goodbye and Hello, lo spirito ribelle di Tim getta la maschera e mostra al mondo che lo circonda una natura diversa. Si tratta di una sorta di horror vacui, di profonda e intima e perenne insoddisfazione, che lo spinge a rifiutare costantemente i riflettori dei media e della popolarità, a sperimentare freneticamente in ambito musicale e artistico, a martoriare il proprio corpo con droghe e alcol, a stordirsi, ad anestetizzare la propria anima ipersensibile. Tim è disgustato dallo show business, dalle leggi del mercato. Per 5 anni la sua musica cambia, si trasforma, diventa la voce dolente e disperata di un tormento interiore inafferrabile e insopprimibile. rompe con il suo manager, Herb Cohen, e si allontana definitivamente dal suo amico e primo paroliere, Larry Beckett, che definisce così lo stile di vita di Tim. Era come se volesse continuamente mettere alla prova la sua vita. Guidava come un folle, ad esempio, rischiando costantemente di fare un incidente. Per tutti gli anni 70 si ubriacava e si drogava, spingendosi giù a sfiorare il punto di non ritorno. Ma riusciva sempre a fermarsi un attimo prima. Viveva l'esperienza dell'eroina come una cosa romantica, ma la sua fortuna lo ha improvvisamente abbandonato. È il 1975. Tim ha già 9 album all'attivo, album che vanno dal folk rock al funky fino al jazz, album in cui, progressivamente, si evidenzia la sua impressionante estensione vocale. Nei primi giorni di giugno del 75, Tim cerca di liberarsi dalla droga e dall'alcol e lo fa tentando di risalire alla sorgente di un senso di colpa che evidentemente lo tormenta. Dopo una serie di date in California, prende la sua auto e si reca ad Orange, California, a casa di Mary Gilbert e del figlio Scotty. Quando Jeff aveva 9 anni, notai su un giornale locale un trafiletto che annunciava un concerto di Tim vicino ad Orange. Beh, ce lo portai. Pochi giorni dopo, incredibilmente, Tim si presenta da noi a trascorrere con Jeff qualche giorno durante le vacanze di Pasqua. In quell'occasione, Jeff venne a sapere chi fosse il suo vero padre, il che fu già abbastanza scioccante. Ma poche settimane dopo, il 28 giugno, Tim morì. Un'overdose di eroina assunta pensando fosse cocaina. Trovai il modo di dirlo a Jeff, che all'inizio sembrò completamente imperturbabile, ma quando dopo l'estate fece ritorno a scuola, mi disse che ora voleva chiamarsi con il suo vero nome, Jeff Buckley, e non più Scotty Moon Reed. Era qualcosa di decisamente profondo per un bambino di 9 anni. Disse che era un modo di riappropriarsi della propria identità e di riappropriarsi del suo papà. In qualche modo forse il tormento, l'eterna insoddisfazione, il continuo inseguimento di una felicità che rimane solo una lontana chimera, passano dal padre al figlio. Jeff Buckley a 9 anni inizia a fare i conti con qualcosa di più grande di lui. Inizia una nuova vita. Destini incrociati. Oggi Destini incrociati racconta l'incontro di destini tra un padre e un figlio. Un padre che vorrebbe non essere padre, che negli anni 70 spinge fino a una morte precoce le sue ricognizioni nei pressi del concetto stesso del limite. Ha solo 28 anni, Tim Buckley, cantautore tra i più preziosi fra quanti emergono tra i 60 e i 70. Qualche giorno prima di morire conosce suo figlio, che aveva abbandonato poco prima che nascesse. Jeff Buckley ha 9 anni e inizia a fare i conti con un vuoto, quella figura paterna che conosce e ama dalle struggenti melodie delle sue canzoni, ma di cui troppo presto ha cominciato a farne a meno. I due si incontrano un'altra volta. È un incrocio spirituale, bellissimo, profondo. Il 26 aprile 1991, Jeff canta un pezzo del padre in un concerto organizzato proprio per ricordarlo. È la prima vera e importante esibizione live di Jeff. La sua voce straordinaria canta con intensità il dolore e la commozione di questo incrocio mancato. Remember me. Jeff cresce in un contesto naturalmente molto diverso da quello paterno. Gli anni della sua educazione sono gli anni 70. Jeff, che da piccolo tutti chiamano Scotty, che è il suo primo nome, cresce con la madre, Mary Gilbert, e il suo compagno, Ron, a Orange County, vicino a Los Angeles. La madre è pianista e violinista classica, il padre fanatico di musica rock. Tra Chopin e i Led Zeppelin, l'infanzia di Jeff è ricca di note. Jeff era molto interessato alla musica fin da piccolino. Già dai 5 anni suonava la chitarra acustica del suo patrigno. All'età di 13 anni ci chiese per il compleanno di regalargli una chitarra. E così fu l'inizio del suo periodo di studio serio dello strumento. Concluso il liceo, infatti, Jeff decide di iscriversi al Guitar Institute of Technology a Los Angeles, a Hollywood, dove può perfezionare la sua tecnica come chitarrista. Il primo album che ha comprato è stato Physical Graffiti dei Led Zeppelin, un album che l'ha segnato nel profondo e di cui si possono sentire le influenze nella sua musica. All'inizio non voleva diventare un cantante, ma un chitarrista. Per questo si mise a studiare tutti i migliori chitarristi rock dell'epoca. Los Angeles, negli anni Ottanta, è anche caratterizzata dall'esplosione del fenomeno del metal, il cosiddetto thrash della Bay Area, che lascia qualche traccia nella musica di Jeff Buckley, insieme al rock di band come Rush o gli AC/DC. Jeff gira ben 7 band negli anni Ottanta, travolto da un'ineliminabile frenesia di sperimentazione. Jeff cercava di sperimentare tutto ciò che musicalmente potesse allontanarlo da paragoni con suo padre. Provava con il metal, con il rock, con il thrash, con il glam. Era l'espressione di un sentimento ambivalente verso il padre Tim. Ammirazione e odio. Jeff possiede un talento vocale straordinario, ma non vuole utilizzarlo. Gli sembra un'eredità del padre, sprecarlo è il suo modo di uccidere il genitore. Solo nel 1990 un lungimirante produttore riesce a convincerlo a registrare un demo tape di 4 tracce che contiene pezzi inediti scritti da Jeff. Quel produttore che il destino mette sul suo cammino è Herb Cohen, il manager che aveva scoperto suo padre e che, scoperto che Tim aveva un figlio, decide di andare a conoscerlo. Il risultato è un demo che, fra mille peripezie e cambi di genere di band, fa conoscere alla Columbia 4 pezzi originali di quel giovane, straordinario talento, e convince la Major a produrre il suo primo album, Grace, che vedrà la luce nel 1994. Il demo tape viene però inciso nel 1991. Grazie ad esso e all'intervento di Cohen, Jeff in quell'anno viene chiamato per un'iniziativa molto particolare e delicata. Un concerto a New York in memoria del padre, Tim Buckley. Fino a questo momento, Jeff ha fatto di tutto per allontanarsi dal genitore, soprattutto musicalmente. Riavvicinatosi a lui nel momento in cui ha scelto di riacquisirne il cognome, Jeff ha poi cercato di andare altrove. Ma la sua voce, il suo volto, il suo stile rimandano inevitabilmente a Tim Buckley, come ricorda il fedele chitarrista del padre Tim, anch'egli coinvolto in quel concerto. La prima volta che lo conobbi rimasi sbalordito. Guardai una foto di Tim e poi guardai quel giovanotto con una maglia nera e i capelli spettinati. Erano identici, stessa faccia, stesso sguardo, stesso modo di gesticolare. Era incredibile perché non si erano praticamente mai incontrati. Ma il loro modo di fare era identico. Lo stesso Jeff ha spiegato così la scelta di partecipare a quel concerto. Mio padre non riguarda il mio lavoro, non riguarda la mia vita. Ma ogni tanto pensavo con rammarico al fatto che non fossi riuscito a partecipare al suo funerale o a dirgli certe cose che avrei voluto dirgli. Così usai quello show per saldare i miei conti con lui. Nell'atmosfera di quell'evento straordinario non c'è solo un omaggio postumo di un figlio distante rammaricato per non avere presenziato al funerale del padre. C'è tutta la profonda disperazione di una distanza e di un'assenza che non possono più essere colmate. C'è l'infelice desiderio inesaudibile di conoscere meglio quell'uomo dalla voce straordinaria, profonda, sperimentale, che ti scava l'anima. Quelli che assistono a quel concerto del 26 aprile 1991, che possono vedere le lacrime di Jeff, lo ricordano come un momento straordinario e struggente. Nel 1994 esce Grace, il debut album di Jeff Buckley, anch'esso straordinario. I conti con il destino Jeff Buckley li salderà solo qualche anno dopo. Destini incrociati. Oggi Destini incrociati sta raccontando un incontro un po' particolare. Un incrocio che è prima di tutto biologico, ma non per questo scontato. Tim e Jeff Buckley sono due straordinarie voci che hanno fatto la storia del rock. Di un certo tipo di rock, di nicchia, sperimentale, raffinato. Due musicisti straordinari. Uno vive e suona negli anni 70, l'altro nei primi anni 90. Il padre Tim, dopo aver messo al mondo il figlio, lo abbandona, fugge da lui, muore prematuramente, ma la sua figura ingombrante è più che presente nella vita di Jeff. Ed è lui a fuggire nei primi anni 90, al momento del suo esordio discografico. Sullo sfondo di un concerto tributo a papà Tim, i loro destini sono più legati di quanto si possa immaginare. Come abbiamo visto, il 1994 è l'anno del successo per Jeff Buckley. Esce Grace, prodotto dalla Columbia, che ottiene un grandissimo successo. Buckley e la sua band partono per un lunghissimo tour in tutto il mondo. Jeff sembra aver trovato la sua strada, raggiungendo quel successo di pubblico che al padre Tim era sempre sfuggito. Durante quel tour massacrante avanti e indietro per il mondo, successero molte cose. Innanzitutto lo stress e la stanchezza si fecero sentire pesantemente. Poi emersero tensioni con la sua band, in particolare con il batterista, Matt Johnson. Jeff era un artista straordinario. La sua musica è incredibile, ma ha una specie di effetto collaterale. Ti scava dentro, ti spinge a porti delle questioni su chi sei, su quello che stai facendo. E questo succede anche a chi la suona. Così di colpo ci troviamo stanchi, scoperti, duri l'uno verso l'altro. Il 1994 è un anno particolare per il rock americano. Mentre Jeff Buckley emerge come nuovo punto di riferimento, un'altra icona, Kurt Cobain, alfiere della rivoluzione grunge, si toglie la vita. L'uno in superficie, l'altro nel profondo. Buckley con un'incessante e raffinata ricerca, Cobain scarnificando i suoni fino a renderli grezzi e primordiali. Si può dire che Buckley e Cobain rappresentino i due volti del rock e del disagio interiore delle giovani generazioni negli States degli anni 90. Ma a proposito di leggende della musica amate da Jeff Buckley, il 1994 è anche l'anno della malattia di Ella Fitzgerald, una voce amatissima da Jeff, a cui vengono amputate le gambe e che morirà un anno dopo. È l'anno dell'ultimo concerto di The Voice, Frank Sinatra. Per quanto ancora lontani dalla fama internazionale dei Nirvana di Cobain e dal mito di Frank Sinatra, Buckley e la sua band vivono l'esperienza di un tour massacrante. Quando finisce, Jeff è esausto e la sua band senza batterista. Lui non ha mai voluto lavorare con turnisti, vuole una vera band e la dipartita di Johnson è fonte di ulteriore stress. Nella testa e nel cuore del musicista, però, scatta qualcosa di più profondo. Ha sempre detto di volersi allontanare dal padre artisticamente. Con Grace l'aveva fatto. C'era la Sony che lo spingeva verso il secondo album. Lui reagì esattamente come il padre. Sentì la mancanza della sua libertà, la mancanza dei concerti nei piccoli club, del contatto con il pubblico. Scoprì che, pur avendolo incontrato solo una volta, somigliava a suo padre più di quanto volesse accettare. Buckley parte così per un piccolo e bizzarro tour nel Nord-Est America, in cui gira una serie cospicua di piccoli caffè. Una scelta che spiega così. C'era un periodo della mia vita in cui potevo esibirmi nei caffè e semplicemente fare quello che volevo fare. Sentire la mia musica, sperimentare, avere di fronte un pubblico che non mi conosceva da divertire o irritare. Era l'indescrivibile piacere del rischio, della resa all'imprevedibile. Tutto questo ora è sparito con il successo. Quello che cerco, di nuovo, è la lussuria dell'ignoto. Per il 1997 la Columbia pianifica la registrazione del nuovo album. Buckley ha composto un nuovo materiale, ma una specie di depressione gli impedisce costantemente di esserne soddisfatto. Il titolo dovrebbe essere My Sweetheart the Drunk. Per il cantautore inizia un periodo allucinato, con continui viaggi tra New York e Memphis, sedi degli studi di registrazione del nuovo album. Il materiale viene costantemente rifiutato e respinto. Qualcosa non va. Improvvisamente, con il successo, era come arrivato il buio. Al ritorno da quel tour in cui aveva raggiunto quello che effettivamente suo padre aveva sempre evitato, Jeff era trasformato. Come se qualcosa in lui, qualcosa che evidentemente era in qualche modo legato a suo padre, gli suggerisse di liberarsi di quello che stava ottenendo. Il 29 maggio del 1997 è prevista la quarta session di registrazione. La band di Jeff, di nuovo al completo, con un nuovo batterista, giunge a Memphis. Jeff è già lì, ha affittato una casa. È un pomeriggio afoso, il cantante decide di andare a fare una nuotata nel fiume Mississippi, accompagnato da uno dei tecnici dello studio. Il nuovo batterista, Parker Kindred, racconta così quel pomeriggio. Arrivamo presso lo studio di registrazione, ma Jeff non c'era. Quando chiedemmo «Dov'è Jeff?», nessuno seppe rispondere. Dopo poco ricevemmo una telefonata. Era uno dei tecnici, era andato con lui al fiume Mississippi a nuotare, una cosa che Jeff faceva spesso. «È scomparso», disse. Ci precipitammo al fiume e quando giungemmo là c'erano già gli elicotteri, i sommozzatori. Non lo trovarono. Il fiume sembrava calmo. Il corpo senza vita di Jeff Buckley viene trovato da un turista il 4 giugno del 1997 su un piccolo molo del fiume Mississippi. Poco dopo l'autopsia, il management di Jeff dirama un comunicato. La morte di Jeff non è da considerare un mistero, nella misura in cui non è in alcun modo legata ad abusi di alcol o di sostanze stupefacenti. Abbiamo un verbale della polizia e un'autopsia che testimoniano tragicamente come si sia trattato di un annegamento accidentale e che il signor Buckley era in buone condizioni mentali prima dell'incidente. Al di là del comunicato ufficiale, la morte di Jeff rimane un mistero. Non si sa, e forse non serve saperlo, se Jeff avesse iniziato a usare droghe. Quello che è certo è che negli ultimi 2 anni qualcosa nell'equilibrio personale di questo grande artista si era rotto. Un tormento nero, oscuro, si era impadronito di lui. Proprio come per il padre Tim, la ricerca di qualcosa di indefinito e quindi inafferrabile lo aveva consumato. A consumarlo però fu probabilmente anche quel rapporto mai pacificato con il padre, sempre assente, eppure così presente. Quel padre che Jeff raggiunge quel pomeriggio di maggio del 1997, quando senza una spiegazione il fiume Mississippi decide di portarselo via. Io non odio mio padre e non avverto più la sua presenza. È semplicemente una cosa che ha fatto parte della mia vita. Ho una grande ammirazione per la sua musica e per quello che ha fatto. Se penso ad altre cose che ha fatto, beh, queste mi fanno maledettamente vergognare. Il rispetto che ho per lui è solo come artista. In fin dei conti, non lo considero mio padre. Non voglio considerarlo mio padre. Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.